Sì, colgo la parola alla base sulla questione dei processi di razzializzazione, in particolare quello che è il diritto che si può considerare agli occhi poi dei laici del diritto, non giuristi, c'è la questione che è un faro, cioè il diritto riesce con il terzo ramo, quello che è quello giudiziario, riesce a dare quelli che sono sia gli indirizzi, ma allo stesso tempo rende palesi le esigenze di una società. Cioè attraverso le leggi, attraverso le sentenze, quello che è una vera e propria azione istituzionale, quindi quella che incide molto di più su quelle che sono le dinamiche sociali. Una legittimazione istituzionale, vera e propria, un'azione istituzionale che in qualche modo cristallizza e ti dice quali sono gli snodi, in particolare più si sale con l'organo che decide, sia sul lato normativo, cioè sia sulla Camera del Comune, fino ad arrivare alla Corte Costituzionale, per fare un esempio italiano, o altrimenti le corti distrettuali negli Stati Uniti e la Corte Suprema come vertice, sempre negli Stati Uniti. E in quel caso lì, quando c'è stata la questione di Ferguson, mi sono imbattuto in una ricerca su quella che era la vera e propria pronuncia del Grand Jury, cioè a parte la notizia sensazionale o quant'altro giornalistica, vedere effettivamente quella rabbia, quali erano i presupposti legali. Cioè, nonostante che prendiamo in considerazione tutto quello che è stato detto fino adesso anche nei processi di razzializzazione che costituiscono poi l'humus, il terreno della società americana, mi interessava un attimo vedere nel caso specifico come si era palesato questo malessere, questa quasi miopia. E in questo caso il poliziotto che autore del gesto nefasto, non può essere incriminato per una sottigliezza di diritto processuale. Diritto processuale significa che in mancanza di elementi sufficienti per poter iniziare un'azione penale, cioè nel senso per questioni di economia proprio del diritto, cioè nel senso non ci mettiamo neanche a discutere della questione perché non abbiamo elementi su cui discutere. Quindi questa mancanza di prove, in questo caso di testimoni, legittima il Grand Jury che vota secondo il diritto americano in una composizione che è segreta, non si viene mai a sapere quali sono stati i percorsi logici tra le dialettiche, tra i vari commenti dei vari giudici, delle varie giurie popolari che hanno emesso tale sentenza. Quindi, in blocco si deve accettare tale, a meno che non ci sia ricorso, che è stato fatto dai legali della famiglia di Mike Brown, nel caso specifico di Ferguson, e quindi da qui rimbalziamo a un ricorso alla Corte Suprema. La Corte Suprema, quindi vediamo un po' qual è il retaggio culturale di questa Corte Suprema americana. America come patria del multiculturalismo, America come precursori della dichiarazione dei diritti dell'uomo, cioè nel senso, oltre a quelli che sono dei sprazzi nella Bill of Rights del 1200 inglese, gli americani prima della famosissima dichiarazione francese, loro stessi avevano queste esigenze. Infatti un giurista antico, Tocqueville, va a fare tipo un trattato di diritto comparato lì in America nel 1800. Subito dopo comunque la dichiarazione che del 1000, non mi ricordo adesso bene, 1900, 1787, ecco. Nel 1790 questo giurista francese arriva lì in America e dice che la proprietà, come dicevi te, rende quello che è il senso di libertà. Tutti quelli che partono alla ricerca del nuovo mondo possono avere il loro pezzo di autodeterminazione, che non è la semplice ricerca di felicità, ma anche la possibilità di essere tutelato dal diritto per la legittima difesa domiciliare, per esempio. Cioè, nel senso, se tu vieni in casa mia io ti posso sparare come quando noi in Italia consideriamo legittima difesa quella personale, fisica. Ora, che succede? Che nel caso di specie, nella costruzione del diritto americano sulle sentenze razziali, c'è una contraddizione. Gli americani avevano la più sofisticata dichiarazione che si potesse trovare all'epoca in materia di eguaglianza e di diritti, 14° emendamento della Costituzione americana, e però allo stesso tempo avevano gli schiavi. Cioè, nel senso, è una contraddizione molto forte che non hanno ancora risolto, a quanto pare. Non hanno ancora risolto, e però allo stesso tempo la cultura occidentale liberale, nel considerare quelli che sono dei processi di sviluppo vero e proprio, considerati come stereotipi quasi adesso, c'era la questione che ogni uomo si deve, come si dice, liberare dei propri limiti per poter poi dopo dare un apporto con la sua soddisfazione individuale alla società tutta. I problemi ci sono perché? Perché a livello poi dopo normativo e proprio vero e proprio, come si dice, giudiziario, ci sono molte contraddizioni, come gli schiavi che non potevano testimoniare. Tu schiavo avevi visto un vero e proprio processo, avevi visto un vero e proprio delitto e non ti era consentita la possibilità perché non avevi la capacità di stare in giudizio, si dice. Cioè non avevi quella possibilità di essere una fonte certa per aiutare il disvelamento della verità processuale. Ora per dire cosa? Che ci sono all'interno di queste tensioni sociali dei passaggi delle varie pronunce della Corte Suprema dal 1800 con la famosissima sentenza Plessy versus Ferguson. E qui abbiamo già un primo elemento di quello che è Mike Brown Ferguson sentenze razziali. Cioè nel senso io ritrovo ancora Ferguson nella prima sentenza che pone dei limiti veri e propri a quella che è una vera e propria emancipazione dei neri, con il principio separati ma uguali. Principio che dice siamo uguali ma dobbiamo stare separati, quindi ci ritroviamo il caso di Rosa Parks sull'autobus che si rifiuta di sedersi negli ultimi posti, ci abbiamo ancora quella che è la segregazione nello sport, ovvero ci sono molti sportivi, football, basket, che non riescono ad accedere nelle leghe principali. Questo principio è stato portatore della politica degli Stati Uniti fino al 1944, anzi dopo la seconda guerra mondiale, ma abbiamo la sentenza nel 1954, però le prime pulsioni si hanno nel 1944. Perché? Perché i militari americani venivano in Italia, venivano in Europa, dove li trattavano da liberatori, erano sentiti alla stregua della stessa misura che non veniva data istituzionalmente nel loro paese. Ora, al rientro vi sono varie pronunce di alcune corti distrettuali dove molti di questi reduci americani che avevano visto il mondo, avevano viaggiato, militari americani, afroamericani, si rifiutavano di rispettare la sentenza separati ma uguali, quindi vi erano le prime azioni di disobbedienza. Azioni di disobbedienza che venivano represse con le varie corti, con le varie corti distrettuali di primo grado, di prima istanza, con quelli che erano dei veri e propri reati comuni. Cioè si cercava sempre di non dare quella valenza politica forte, vera e propria, attraverso la repressione con strumenti normali, fino ad arrivare a quello che è il cuore degli Stati Uniti, ovvero la formazione, l'istruzione, l'eccellenza, con la sentenza Brown versus Board of Education of Topeka, che è una high school. In quel caso lì vi è un vero e proprio capovolgimento, ovvero le istituzioni che arrivano sempre dopo rispondono a questa esigenza, data pure dal New Deal, data da varie contingenze, non solo la Seconda Guerra Mondiale, di una società che chiede ed esige, dopo quello che è stato anche il percorso, il fermento dei diritti civili con i movimenti delle comunità nere, che è un apporto importante. Risponde con questa sentenza e riesce a essere anche lei, infatti la sentenza è del 54, quindi riesce a essere anche precursrice, in questo caso lungimirante la Corte Suprema, nel vedere oltre. E in questo caso viene annullato il principio separati ma uguali. Ora, salendo con il tempo, vi è un'ulteriore riflessione che è indice di questa ambiguità della Corte Suprema, un'ambiguità che è nella società stessa, cioè nella società americana stessa. La Corte Suprema non può fare altro che riflettere, perché il diritto è una, cerca di essere neutro, ma in molti casi lo è ancora di più, risulta trasparente. Cioè, nel senso, vi è stata un'azione omissiva della Corte Suprema in questi anni qui, fino agli anni 70. Cioè, nel caso, il caso Guzman, il caso Bach, sono tutti dei casi in cui la Corte, Suprema non entra nel merito, come il caso Ferguson. Non possiamo, per vizi processuali, formali, parlare di questa questione qui. In questo caso, anche qui c'è stato un ciclo di lotte parallelo. Questi dati che io sto dicendo sono stati presi da un'associazione di avvocati afroamericani, ma anche dall'associazione avvocati americani, quella là, istituzionale. Un ciclo di lotte e una coscienza vera e propria anche di chi fa le leggi. E qui nasce nel 1964 il Civil Rights Act. Civil Rights Act, che ha un titolo settimo, che permette, una volta che ci rendiamo conto di queste disparità, permette alle istituzioni di creare delle discriminazioni costituzionalmente legittime. Si chiamano azioni affermative, vengono chiamate. Ronald Dworkin, perché ho problemi di pronuncia grandissimi, Dworkin è il primo a teorizzarle e vengono applicate negli Stati Uniti in questa forma qui. Però, nonostante ciò, essendo azioni palliative, e non affrontando il problema alla radice, quello che poi dopo le statistiche dicono, già dagli anni 70, agli anni 80, della giustizia penale, che all'interno del diritto tutto, la giustizia penale, è quello che fa da filtro, il lavoro sporco, cioè ti rendi conto dal penale davvero quello che magari succede nel civile, nell'amministrativo, le tendenze si chiamano. Ora, che succede? Che questa tendenza, negativa nei confronti delle comunità nere in tutti gli ambiti, non solo dal fermo per strada, già dal fermo per strada, già dal fatto che nelle giurie popolari non vi sono persone di colore in genere, cioè è molto difficile trovarle e quindi se io sono nero non c'è un mio eguali pari che mi sta giudicando, almeno nel senso razziale. Questo per intendere cosa? Che nel meccanismo poi giudiziario manca poi quel seme che abbiamo ritrovato poi negli altri poteri, come dal governo, con Bush, avevamo Condoleezza Rice, Powell, afroamericani, prima precursori di Obama nella gara dei neri nelle più alte cariche. Non abbiamo in questi sistemi giudiziari quelli che sono, come si dice, una componente che possa comunque rispecchiare quella che dopo la divisione sociale, la divisione etnica vera e propria sociale che c'è fuori, cioè la funzione che deve avere la giuria. Questo per dire cosa? Purtroppo i discorsi giuridici sono un po' così noiosi, però allo stesso tempo è rilevante il fatto che ciclicamente ci ritroviamo che nel funzionamento della macchina tutta abbiamo nei vari percorsi delle sentenze, delle pronunce, un ritorno. Tipo, vi è questa tendenza adesso, già dall'amministrazione Bush all'amministrazione Obama, una sentenza del 2013, su quelle che è l'azione delle azioni affermative. Cioè, nel senso, i bianchi si stanno lamentando su una sorta di disparità di trattamento nei loro confronti nel momento in cui vengono messe in atto, in pratica, le azioni affermative, che sono poi, come dire, un modo di riservare, il termine quota è stato rifiutato dalla Corte Suprema, quindi dovrei dire, il modo di riservare un accesso preferenziale in virtù di alcune situazioni oggettive di discriminazione. Quindi se io mi sento discriminato oggettivamente perché vivo in una casa popolare, con poco accesso alla cultura, con condizioni economiche che non mi permettono una autodeterminazione completa, in questo caso le azioni affermative consentono ciò, spingono ciò. Il problema, a mio parere poi personale, che è poi modesto rispetto a quello che è stato scritto sull'argomento, le azioni affermative anche in Brasile, lì l'ho trovato nel mio viaggio, A livello poi di diritto sono droga, cioè nel senso sono dei modi, nel modo di essere poi temporali, sono dei modi di ovviare al problema ma temporaneamente, perché comunque i problemi sociali di relazioni, per come vi è l'assetto economico ed razziale americano, porta con sé degli effetti che il diritto non può far altro che amplificare. Cioè, il giurì che ti parla in quel modo lì, in qualche modo è una scelta obbligata. E questo che cosa pone? Pone una riflessione importante di come quello che è l'ossatura poi del diritto non può far altro che essere uno strumento di riproduzione di marginalità. Cioè, lungi dal pensare che poi il diritto in questo caso riesca a porre un freno. Cioè, quando vi è no justice, no peace, un ritornello ormai, un cavallo di battaglia dei vari movimenti, una parola d'ordine. Il problema è dire su quali canali portare la giustizia, perché gli Stati Uniti si fanno promotori nel mondo di democrazia, vengono comunque presi a modello e purtroppo vi è la questione che il loro modello, già messo in piedi nel pieno vigore nel Novecento, sta portando le sue più becere conseguenze alla luce adesso, con queste generazioni qui, da Los Angeles. Questo per dire che cosa? Che post crisi finanziaria anni 80 con la società dell'informazione abbiamo la questione che un giurì è ancora vincolato a dei precedenti, ad uno stare decisis, laddove dovrebbe poter avere gli strumenti, perché io non dico solo le cose vanno male, dico anche magari come potremmo in qualche modo fare dei passi avanti, ad avere degli strumenti per poter comunque segnalare e fungere davvero da quel campanello che dicevo prima d'allarme sociale, perché in questo modo agli atti del processo va a finire il caso di Mike Brown semplicemente come delle tante statistiche di negata giustizia. Quindi una volta che un nero va in carcere devi trovare anche la capacità di poter assistere tecnicamente il caso, quindi anche pagarsi un avvocato diventa un problema, pagarsi un avvocato, oltre al fatto che le pene nei confronti delle comunità afroamericane sono pene che riguardano il 10% tra le sanzioni più gravi che troviamo, non nei codici, ma come si dice, nella giurisprudenza del common law americano. Cioè, la questione è che la gravità di trovare il Presidente degli Stati Uniti afroamericano e le corti che ragionano in quel senso lì porta gli Stati Uniti a questa contraddizione così forte che per me è un buon fermento, sinceramente parlando. Cioè, nel senso che la presa di coscienza che deve portare non solo a delle nuove Black Panther, Panthers, cioè nel senso ora come ora si sta parlando di questo nell'ambiente musicale, è uscito un disco adesso, oltre a quello della Lauryn Hill che uscì all'epoca, Black Rage, è uscito un altro disco, Paris si chiama, The Light of Long Nights, dei lunghi coltelli, non solo a quella reazione, ma veramente azione, cioè nel senso reagire sì quando ci troviamo al limite, ma agire non tramite i canali istituzionali delle azioni affermative, ma anche attraverso quelli che sono quei simboli, i negri baschettiani che giocano a basket in NBA, tutti quelli là, cioè trovare quei canali che rendano poi dopo davvero una figura delle comunità afroamericane consapevoli, perché purtroppo quello che ci è stato insegnato dalla storia, le sentenze lo dicono, che sì, siamo uguali, ma non troppo, siamo sempre cittadini di serie B e questo bisogna evitarlo, ecco. Cioè, nel senso quella considerazione che un poliziotto si ponga davanti ad una persona che lui rappresenta la legge o quantomeno rappresenta la legge e quindi può agire prepotentemente. Perché in questo caso, dalle interviste e le dichiarazioni del poliziotto agli atti del giurì che ho cercato con fatica negli altri giorni, c'era proprio la questione che lui avesse, immaginato, palesato la sua situazione in pericolo rispetto al soggetto che stava fermando, cioè nel senso che quella persona avesse quei connotati di pericolosità sociale che si manifestavano nel caso di specie, nonostante lui fosse un pubblico ufficiale, la persona lì non aveva paura, da ritenersi pericoloso per tutti, quindi una volta che è pericoloso per tutti, lui può agire in quanto servitore dell'interesse pubblico, tutti. Quel caso lì, questo ragionamento deve essere impedito pro futuro, ecco. Non si deve più presentare la possibilità che l'interesse pubblico possa coincidere con l'uccisione di una persona afroamericana o latino stressia. Poi non so se... Non so, Loris, come procediamo? No, facciamo, io dico, facciamo magari un po' il dibattito se c'è sì, perché poi posso parlare da qui a dopodomani.